Grazie agli AC/DC e soprattutto grazie a voi di essere puntuali, precisi, sempre con noi dal mattino con lo spazio di Pane, Burro e Rock and Roll, alias It's Only Rock and Roll But I Like It, e poi con il mio appuntamento di 3 ore. Buongiorno a tutti voi, Marco Gravelli, 7 minuti dopo le ore 9 per questa giornata di venerdì 23 maggio. Arriviamo alla chiusura di questa settimana con questo spazio, poi la prossima è un po' random perché, come vi segnaliamo da un po' di giorni, come vi diceva prima Ariele, ci saranno diversi ospiti, soprattutto concentrati nella fase pomeridiana, primo pomeriggio dalle 14 in avanti sino a sera, quindi è probabile che al mattino possiate ritrovarvi a giorni alterni, non lo so, perché dobbiamo poi concentrarci su tutto il resto della giornata per arrivare sino al prossimo venerdì 30, a partire dalle ore 18, quando inizierà la nostra 24 ore finale. Il numero di SMS è valido anche per voi per questa giornata, 335-100-7777, la mail marco@rockfamily.it. About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. They walk on. Checks his back, flexes his thoughts for the moment. Scratches his head and does his best James Dean. Jackie say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say life goes on, long after the thrill of living is gone. American kids doing best they can. John

Ascendente per il finale di questo brano, di questo storico motivo, Bridge Over Troubled Water, per il duo Simon & Garfunkel, All Day and All of the Night. Era invece la formazione dei Kinks in apertura, Gigantic o Gigantic, eccetera, pronunce strampalate, per Pixies. Alle 9.22 saluto tutti gli amici che sono all'ascolto, che stanno lavorando, che non stanno facendo nulla, che si stanno divertendo sulla rockfamily.it. Un saluto veramente a tutti. Andiamo a vedere se qualcuno degli 1600 passi iscritti compie gli anni. No, non li compie nessuno in questa giornata. Allora vi segnalo io un po' di compleanni a livello di artisti rock. 23 maggio 1946, Daniel Klein, componente della J. Gals Band. Il compleanno del giorno. for Love, questo lo so, è una band non molto conosciuta qua da noi in Italia. Vi consiglio i loro primi dischi, ne hanno fatti molti, poi hanno avuto una svolta pseudo commerciale con Centerfold eccetera, però i primi album e soprattutto i due live sono veramente coinvolgenti, sparano a mille sul palco, quindi ve li consiglio. Jagger's Band, questa era Looking for a Love, compleanno di Daniel Klein, componente del gruppo nato il 23 maggio del 1946. Sono già arrivati un bel paccotto di SMS, allora vado a salutare gli amici. Cominciamo dal primo che dice: ciao Filippo da Viareggio, domani sera ci sarai anche tu con la Rock FM Monster Band? No, lo dicevo ieri, io ci sarò il primo di giugno a Firenze, alla FLOG, e poi il 6 di giugno, venerdì, con la Claudia, sempre nello stesso posto di domani sera, cioè al Gens di Pontedera. Un salutone da Nathan 69 da Firenze, o Jonathan, che dice: da 9 anni che siete la mia colonna sonora al lavoro, mi dite come farò? Grazie, grazie. Oggi compio 48 anni, ciao Gianni da Paderno Dugnano, grande Rock FM, tanti auguri. Allora Gianni, buona giornata anche a te, trascorri la rifacciamo, trascorri la nel miglior modo possibile. Ancora un nostro amico Diego da Bagnacavallo: visto che tu sei l'amministratore, no guarda, io non amministro proprio nulla, lungi da me essere l'amministratore, come ultimo brano proporrei, l'ultimo brano sarà una sorpresa, non l'abbiamo già o l'hanno già preparato, e quindi sarà una sorpresa, va bene? Ancora un salutone allo Sbarone, buona giornata anche a Lara, grazie per le tue sempre commoventi parole, veramente. Poi ancora un saluto, una buona giornata al Fungo, Mike patente 198, poi mi chiedono i pay da parte di Gaia, vedremo se oggi li abbiamo in scaletta, e il Pepper, anche a lui buona giornata, ok? Grazie, grazie di cuore a tutti gli SMS giunti al 335 100 7777. Continuiamo con un altro compleanno. Dopo quello di Daniel Klein, Jagger's Band, andiamo a Bill Haney. 23 maggio 1947, il cognome non dice nulla, il gruppo invece sì. Electric Light Orchestra. Il compleanno del giorno. Beethoven rivisitato con la sezione archi, fiati, eccetera, dalla Electric Light Orchestra. Uno dei componenti della band che suonava la tromba, Bill Hunt, di origine francese, nasce nel 1947 nella giornata odierna, 23 di maggio. Ma non è l'unico, altri ascoltatori ci fanno sapere che nascono quest'oggi, ovvero sia Andrea Jamie dice: stasera festeggio il mio 31esimo compleanno suonando con i Lost Dogs nel pub Guinea di Marina di Ravenna. Allora, tanti auguri e buon concerto. Ancora un altro amico, Luca di Bida Viareggio, dice: grazie a voi ho cominciato a mettere musica, ci vedremo il 31 per parlare di una futura nascita. D'accordo, noi invece ci fermiamo solo per qualche istante e torneremo con voi con i Kansas.